cosa di più, perché avevo anche il compagno, qualche cosa che era lo stesso, il compagno che si fa un po' di solito, dai, anche un po', io sono andato, ho preso la zona di quanto abbiamo, e mi si mostra per me, allora, la faccia in famiglia, ma fuori, adesso va benissimo, ci si prepara le lati, noi rimaniamo un altro giorno, quindi non si può fare più, è già la casa gola, è già la casa gola, poi come, si preparano gli altri, piano piano, e noi andiamo a fare lo stesso, Non si può fare niente. Cosa vuol fare? Non mi piace sono ore 4, mi rivolgo con il gioco. Alle 3 non mi rivolgo con il gioco. Alle 4 e mezzo, mi dice, beh, basta, non è mai fatto. Thank you. tempo e poi non so se li ho persi dentro o se li ho persi fuori, ma non so, tirati la mano e mi sono spariti, non so dove li ho persi. E per il mare che si raccoppia, e si la faccio andare, e con lui faccio andare il cielo, e la formazione di loro, guarda. Sono un bello di là, di voi. Allora, si come c'è che ho detto, la foto dentro una sacchetta. Ah, adesso sono riuscito a trovare, ma mi tocca ordinare, me ne ho altro, mi tocca ordinare, perché ci vuole. Ma non dimenticare la macchina, tu, a quella casa, Forse domani ci risolviamo lo stesso, ciao domani, stanno bene.